Cari amiche, cari amici, benvenuti a Radio Alma, brucellando Mari Die ai microfoni, martedì sera, il 31 luglio e come già annunciato precedentemente, questa sarà anche la puntata conclusiva di brucellando per la stagione 2012-2013, quindi è con un po' di tristezza che andiamo in vacanza, però sapete, le vacanze sono necessarie perché è anche opportuno riconfigurare quello che sarà l'assetto futuro di Brucellando e saranno tante le novità, vi posso assicurare, che caratterizzeranno la prossima stagione radiofonica. Ne approfitto per salutare Dani M in regia, Buonasera a tutti. i nostri Giorgio e Fiordaliso che sono in arrivo. Avrete notato che questa sera eccezionalmente abbiamo anticipato di poco la trasmissione perché è l'ultima puntata. Ci sono tante cose da raccontare. Tre ospiti, di cui uno in studio e due al telefono, uno dall'Italia e l'altro da Bruxelles. Quindi, per concludere, dopo una ricca e intensa trasmissione, tre ospiti di eccezione. Prima di passare ai nostri ospiti, probabilmente riderete, ma credo sia importante dare il benvenuto, salutare, non so se chiamarlo già Re George, comunque il principe George che è venuto al mondo proprio la settimana scorsa, quindi brucellando augura alla famiglia reale britannica veramente tanta felicità, così come sembra essere il caso e ci piace ugualmente ricordare l'evento. Così come vogliamo salutare anche, è stata una settimana molto importante da un punto di vista regale, non se ne parla mai, poi quando se ne parla tutto insieme arrivano tante belle novità. Philippe è diventato re settimo, re del Belgio, accompagnato dalla bellissima moglie Matilde, dei quattro pargoletti, veramente l'uno più bello dell'altro. Sostituiscono Alberto e sua moglie Paola, la dolce Paola, così come qualcuno l'aveva soprannominata qualche anno fa. Ai regnanti auguriamo tutto il meglio perché questo paese ha bisogno di coesione, ha bisogno di un forte sostegno e noi di Brucellando, di Radio Alma, come abbiamo ripetuto più volte, ringraziamo questo paese per averci ospitato e per darci anche la possibilità di poterci esprimere in questa città anche in italiano e di raccontare poi della vita italiana, a Bruxelles. E ai regnanti che hanno ceduto il passo proprio, qualche giorno fa, che hanno comunque amministrato, diciamoci la verità, nel migliore dei modi. Quindi auguri ai nuovi regnanti, auguri anche al paese. L'anno prossimo poi sarà tempo di elezioni a tutti i livelli, eccetto quelle comunali, quindi insomma sarà sicuramente un tempo di cambiamenti e i cambiamenti sono necessari. E con questo mi avvio invece a introdurre la nostra prima ospite. Ne parlavamo mentre venivamo in radio, io non sono ancora stata nella sua città natale, il che, come poi capirete, è abbastanza grave, ma prometto che mi recherò quanto prima, così colmerò anche questa lacuna. E sono molto felice perché proprio attraverso Brucellando ho conosciuto una realtà che ignoravo completamente, che è un'associazione molto importante, soprattutto per noi donne, e alla quale veramente auguro anche tantissimo successo. Mi riferisco a Professional Women International, che ha sede a Bruxelles. Sono veramente felice di avere qui con noi a Radio Alma, brucellando questa sera, il segretario generale, che è Alessandra Zocca. Alessandra, benvenuta a Radio Alma, brucellando. Grazie e buonasera a tutti. Alessandra ha un curriculum internazionale strepitoso, veramente. Capisco come mai hanno deciso di renderti omaggio anche con questa carica, perché hai lavorato in tanti paesi, non hai lavorato soltanto in Belgio e in Italia, ma hai lavorato in Germania, hai lavorato in Svezia, prima che tu fossi per l'appunto nominata segretario generale lo scorso maggio 2011. Tra l'altro sei anche direttore e fondatrice del magazine PWI, quindi direttamente collegata alle vostre università. Però, se capisco bene, hai cominciato all'università, insegnando all'Università di Sì, ho Verona, cominciato la mia carriera insegnando all'università, sì. dove ti sei laureata in economia e poi hai anche conseguito un master in neurolinguistica. Neurolinguistic programming in italiano, come lo Si chiama traduciamo? programmazione neurolinguistica, Ti ringrazio. che è Programmazione un ramo neurolinguistica. della psicologia, sì. E anche contribuito attivamente ad associazioni come AIESEC, Amnesty International e Fondazione Marisa Bellisario. recentemente, possiamo dirlo, però ne parleremo prossimamente, altrimenti mi ci vorrebbero tre brustellando questa sera, ma il tempo non c'è. Sei stata anche nominata ambasciatrice di Giulietta nel mondo. Sì, sono l'unica ambasciatrice di Giulietta nel mondo al momento. E quindi, insomma, è una carica che ti fa veramente tantissimo onore. Questa sera però, come dicevamo in apertura, ci fa piacere parlare invece della tua esperienza al PWI. E noi vorremmo sapere come nasce questa tua esperienza, questo tuo percorso con l'associazione. Allora, Professional Women International, vi dico due parole sull'organizzazione. È un'organizzazione no profit che si occupa di migliorare, di rafforzare lo sviluppo professionale delle donne, diciamo da un livello manageriale in su. Quindi è dedicata alle donne che hanno già un'esperienza, hanno raggiunto una certa seniority nella loro professione. Questo significa che stiamo parlando sia di imprenditrici, sia di donne che lavorano nelle multinazionali, di donne che fanno delle professioni come il medico, come l'ingegnere, l'avvocato, ma a un livello già di esperienza. A Bruxelles. 20h. Ed eccoci nuovamente a Brussellando, c'era il segnale orario, per l'appunto sono le 20, sono Maridì, siamo a Radio Alma a Brussellando e con noi Alessandra Zocca. Quindi dicevamo a Bruxelles. A Bruxelles è nata Professional Women International, è nata nel 1991, è collegata a the International Alliance of Women, che è un'organizzazione, come si dice, umbrella organization, cioè un'organizzazione che raggruppa organizzazioni che si occupano dello sviluppo professionale delle donne in diverse parti del mondo, e poi a livello europeo è collegato con The European Women Network, che è l'organizzazione europea che ha vari City Log, City Networks, e che rappresenta l'aspetto europeo di questa organizzazione. Stiamo parlando di più di 3.000 donne a livello europeo, e poi puoi immaginare centinaia di migliaia di donne a livello mondiale. E l'obiettivo fondamentale è quello di aiutare lo sviluppo sia professionale sia personale delle donne che desiderano avere una carriera e migliorare la loro preparazione. L'organizzazione è composta di un board di cui io faccio parte, e oltre al mio ruolo di segretario generale abbiamo un presidente che è Armel Ogmanian, abbiamo un tesoriere, Monica Mates, e poi una esperta di tecnologie che è Corina Cecanov. Abbiamo un executive team che sono come dei direttori che si occupano di varie attività, un advisory committee di cui ci serviamo per discutere le nostre strategie, e poi degli honorary members, tra cui Cristina Vicini, che è stata forse il presidente più famoso che PWI abbia mai avuto. E poi abbiamo i nostri importantissimi, sono i nostri membri, che sono donne, ma le nostre attività, da quando almeno sono diventata segretario generale io, le attività sono aperte quasi tutte anche agli uomini, e poi vi racconterò meglio in dettaglio quali. Salutiamo il nostro George. Eccoci. La nostra Fredalisa. Ciao, buonasera. Quindi, allora, ricapitolando, l'organizzazione si rivolge alle donne in particolare, però poi le attività sono aperte sia agli uomini che alle donne, quando hai assunto la direzione. Quando sono diventata segretario generale. Nel board, noi siamo in quattro, nel board sono quattro cariche. Le attività sono di diverso tipo, per esempio abbiamo attività di formazione che chiameremo più di aggiornamento, perché la nostra, con un certo livello di esperienza, si tratta più che altro di aggiornamento. Abbiamo attività in cui facciamo delle presentazioni, abbiamo dei workshop e abbiamo i cosiddetti networking events. Soltanto i networking events sono riservati alle donne, perché è la possibilità di esercitarsi e nel networking, c'è una tecnica apparentemente, dicono i maligni, dicono che le donne non sono molto brave a fare networking, quindi una possibilità per fare networking, ma anche è la possibilità per le donne di incontrarsi, di fare conoscenze in un ambiente molto amichevole e sempre molto safe, come si dice in inglese. Uh-huh. Mentre invece le altre attività, quelle di formazione, quelle di presentazione, i workshop, normalmente li apriamo, anche li facciamo di sera o qualche volta un breakfast, qualche volta un lunch, oppure sabato o la domenica per quando si tratta di un workshop un po' più lungo. Sono aperti anche gli uomini. Il motivo fondamentale è che non si può cambiare, non si può evolvere dimenticando l'altra metà del mondo. Cioè, assolutamente. E nel campo poi del business, nel campo della professione, gli uomini sono anche la maggioranza. Quindi l'obiettivo è di cambiare insieme, di progredire e di sviluppare la professionalità femminile in accordo, in armonia, ecco, forse la parola più giusta è in armonia con gli uomini, e per permettere anche agli uomini di apprendere il linguaggio, il codice femminile, in modo che se noi diventiamo, come diceva Viva, bilingue, gender mm-hmm. bilingual, forse riusciremo a capirci meglio e collaborare meglio. Tra l'altro, tra le attività che ha introdotto proprio nell'organizzazione, c'è anche un magazine online, sì, questa di prossima uscita. Come nasce questo progetto? Allora, questo non è proprio di prossima uscita, è la prima cosa che ho fatto quando sono entrata in PWI alla fine del 2010. E la prima domanda che mi sono posta quando sono entrata in questa organizzazione era qual è il nostro organo, il house organ. E c'era una newsletter e io ho detto, ma se noi siamo un movimento di opinione dovremmo pure avere un mezzo per cui, attraverso il quale noi esprimiamo le nostre opinioni. E così ne ho parlato con il presidente e mi ha detto, vabbè Alessandra, prova, facci una proposta. Io ero proprio entrata da poco, ho fatto questa proposta. E nel giro di un paio di mesi siamo usciti con questo magazine. All'inizio, sai, pensavo, ma chi vorrà mai, dovrò trovare un sacco di persone. E invece adesso ho il problema opposto, che ho persone da tutto il mondo in lista d'attesa che vogliono essere intervistate. Per cui io ho cercato, ho detto, perché? Perché le donne non scrivono. Mi sono documentato, ho guardato le statistiche degli opinionisti a livello mondiale. Le donne sembrano che scrivano solo di moda, di bellezza, di bambini, di diete. e quindi ho detto, ma come, non è possibile, allora dobbiamo scrivere, ho detto, e se le donne non scrivono le intervisto, quindi ho trovato il sistema per farle parlare, perché una critica che spesso si sente rivolgere alle donne, speak up, e va bene, scrivete voi o fatevi intervistare. Quindi le donne a cui ti rivolgi sono per lo più donne, diciamo, che svolgono anche ruoli di management? Sono persone che hanno un'attività, una vita interessante, che hanno fatto qualcosa di buono e di utile nella loro vita e che occupano posizioni alte, o che sono anche magari persone che fanno delle attività straordinarie. Per esempio ho intervistato una donna che è stata la donna comandante soldato di plotone di uomini in battaglia, in guerra. Ho intervistato donne che hanno creato altre organizzazioni di donne, ho intervistato donne che hanno attraversato a nuoto l'oceano, donne che si sono occupate di fare delle attività a favore nelle aziende della favore della diversità, inclusion and diversity, e ho intervistato uomini che sono interessati a collaborare e che nel loro ruolo hanno sempre applicato la gender equality. Quindi non ho intervistato solo donne, ho intervistato persone, chiaro che dà una certa preferenza alle donne essendo un'organizzazione di donne, però tutte persone che nella loro vita sanno di aver fatto qualcosa di buono, che vogliono condividerlo e che sostengono la loro causa. Certamente non mi piace intervistare persone che parlano solo della loro azienda, io voglio parlare di persone e non di enti, cioè se uno deve parlare di sé, deve parlare di quello che ha fatto personalmente, di quello in cui crede e lo vuole comunicare con gli altri. C'è una storia che ti ha colpito in particolare? C'è qualcosa che... Sì, mi ha colpito questa storia di questa soldatessa della NATO che mi ha detto l'unica paura è quella di avere paura. Che quindi lei era una soldatessa che combatteva a capo di un plotone maschile e che nel weekend faceva lezione di cupcakes. Madonna. Quindi lei diceva, nel weekend insegno perché è la mia passione e quindi faccio questo. Quindi persone che sono veramente ricche, no? Non hanno una sola cosa, non si identificano solo con il lavoro, ma hanno una vita ricca. Questa, per esempio, è una persona che a me va colpito proprio per questa sua caratteristica. Ma ci sono anche altri personaggi che sono veramente molto in gamba, persone che vivono per gli altri. Una donna che è andata in Africa e ha insegnato agli ospedali come gestire la maternità e il parto. Quindi lei ha salvato la vita, ed è una professionista inglese che abbiamo intervistato e che veramente ha salvato la vita a moltissime donne e ha insegnato il mestiere di ostetrica. Quindi sono persone che lasciano un segno, no? Con quello che fanno, quello che credono. Il prossimo numero del magazine è in uscita. Allora, il magazine esce ogni 3 mesi, ogni stagione esce. Adesso abbiamo il prossimo numero esce tra qualche giorno, e questo sarà intitolato, abbiamo una rubrica che varia, che ha un titolo diverso, che è la rubrica dell'edizione, che quindi avrà questa volta il titolo Fit for Performance. Abbiamo detto è estate, è ora di metterci in forma, perché qualunque professione facciamo è importante essere in forma fisicamente, spiritualmente, mentalmente e anche psicologicamente. E poi ci sono delle rubriche che sono sempre quelle, che c'è Women and Career, in cui parliamo di alcune donne che hanno una carriera bellissima, una professione, sono molto in gamba, e uomini, e poi abbiamo un altro che riguarda le nuove professioni o professioni strane. Mm-hmm. Abbiamo una rubrica di management e una rubrica miscellanea, dove raccontiamo delle cose di cultura, perché è chiaro che, per esempio, io ho fatto un'intervista a Verona, la mia città, a un consigliere che si occupa dei rapporti con le persone all'estero, di flussi migratori, quindi è una persona che interessa tutti quelli che abitano all'estero, per i veronesi che abitano all'estero, e l'ho intervistato su questo modello che stiamo mettendo in piedi insieme, perché da settembre sarò il presidente dei veronesi a Bruxelles anche, e quindi metteremo insieme un modello. Abbiamo fatto un modello su come gestire questa cosa, e per esempio questo è un uomo che gestisce la parità dal suo punto di vista e dà opportunità alle donne, spazio nell'attività. Quindi voglio dire, ci sono articoli anche così un po' vari che stanno in questa categoria, come dicevo prima, miscellanea. No, infatti dal mens sana in corpore sano, che potrebbe essere riassunto della forma fisica e della forma mentale insieme. Anche quella psicologica, non sottovalutiamo che la forma fisica e la forma psicologica sono due facce della stessa medaglia. Il nostro corpo riflette, il nostro comportamento riflette se stiamo bene o se stiamo male. Ma credo che proprio i latini, quando si usavano il termine mens, si riferissero proprio alla parte psicologica più che alla parte intellettiva, all'aspetto, perché insomma l'aspetto psicologico è estremamente importante. E proprio questo mi fa riallacciare alla domanda che volevo fare prima su questa soldatessa. E visto che lei ha conosciuto un sacco di persone, mi potrebbe parlare della commistione e come funzionano i ruoli dell'uomo e della donna? Mi spiego meglio. Una soldatessa che fa il capo di un plotone cerca di imitare in qualche modo la parte maschile o no? È un uomo che invece fa un lavoro un po' diverso, comunque più vicino al mondo femminile, tende a femminilizzarsi o no? Come reagiscono queste persone al tipo di ambiente che li circonda? Dal punto di vista militare ci sono delle regole molto strette, quindi penso che l'ambiente militare sia quello in cui è più difficile il maschilizzarsi o il femminilizzarsi, nel senso che ci sono delle regole precise da rispettare. Quello che hai accennato può invece trovare più spesso negli ambienti in cui le donne sono poche e cercano di adottare comportamenti maschili, e allora c'è questa parola che viene usata, che è she-man, per invece di dire woman, è she-man, perché è una donna che adotta comportamenti maschili. Non sarà mai un uomo, quindi non è completamente una donna, quindi sono diciamo comportamenti forzati che non sono poi alla fine apprezzati, perché ciò che è veramente apprezzato è quando c'è un comportamento autentico. Comportamento autentico non significa altro che il perfetto allineamento tra mente, cuore e anima. Quindi quando una persona è completamente allineata è veramente autentica. Quando una persona cerca di comportarsi diversamente da quello che è veramente, allora sì, tutti si accorgono che c'è qualcosa di forzato. Gli uomini faticano molto di più perché sono meno disposti ad adottare magari dei comportamenti non tipicamente maschili. E quello che dicevo prima del bilinguismo di genere, cioè gli uomini hanno un codice, le donne hanno un codice perché ci sono delle differenze. Se noi le comprendiamo e sappiamo leggere, poi ne possiamo adottarle quando c'è bisogno. Certe volte è utile magari adottare un atteggiamento maschile quando c'è bisogno, e viceversa è utile adottare certo. Ma questo non significa adottare dei comportamenti e disnaturarsi. Per cui io credo che la cosa più importante per le donne sia di restare sempre femminile, di essere riconosciute come donne, ma di essere in grado di muoversi in ambienti maschili e femminili con agilità, come se fossero due ambienti in cui sanno nuotare perfettamente. È bellissimo questo riferimento al linguaggio maschile e femminile. C'è un bellissimo libro di Barjavel, La notte dei tempi, in cui si parla proprio di una civiltà che aveva una lingua maschile, dotata solo di maschi, e una lingua solo dalle femmine. Ciascuno capiva quella dell'altro, ma parlavano proprio due lingue diverse. Molto interessante. L'antichità ci insegna molte cose, anche se in tanti hanno cercato di nascondere tante storie e tante verità. Allora noi siamo proprio curiosi, vorremmo partecipare. Quali sono i prossimi eventi? Allora, adesso c'è un evento che è un po' per l'estate, insomma, abbiamo tenuto un evento che sarà sul look, nel senso che le persone che arrivano a Bruxelles arrivano da tantissimi paesi e ognuna è abituata a vestirsi come ci si veste nel proprio paese. Quindi avremo un'esperta che ci darà alcune indicazioni su questo dress code che può essere utilizzato qui a Bruxelles, e poi su alcune piccole indicazioni su anche che cosa ci valorizza o meno, cioè saper che per esempio c'è una ruota di colori, qual è il colore che riflette, per esempio il verde riflette il rosso, oppure il giallo riflette il viola. Allora uno pensa di essere radioso, di entrare, di dire voglio portare un po' di luce, voglio essere così colorato, ecco, invece si mette un colore che poi riflette il viola sul viso. Quindi questi piccoli accorgimenti, ma questo è, lo facciamo veramente raramente, però ogni tanto ce lo chiedono, perché appunto venendo da diverse culture, capire se quali sono le cose che ci possono aiutare a mettere in luce la parte migliore di noi può essere sempre positivo. Poi abbiamo un network drink, che appunto che dicevo, questi networking drinks sono soltanto per le donne. Poi avremo delle attività invece di presentazione di libri. No, tutte le altre sono aperte agli uomini. Ce n'è una il sola primo mese. Sul look è aperto anche agli uomini? Questo primo in teoria, sì, io ci sono, io partecipo. Ecco, io ho visto Giorgio, l'occhietto di Giorgio, di Danielle, sì, che pure usa molto i colori, si è subito illuminato. Poi quindi stiamo progettando dei lunch sulla diversity, discutere su questo, aperte agli uomini e alle donne. Avremo degli appuntamenti sulle nuove tecnologie. Abbiamo moltissime richieste sulla che fine fanno i nostri dati quando noi immettiamo. Ecco, c'è una grandissima preoccupazione come poter utilizzare meglio tutte queste social media technologies. Certo. Ci sono queste cose, poi ci sono presentazioni, persone che pubblicano dei libri. Io farò probabilmente una presentazione su una scuola nuova che è nata, che si sta espandendo nel mondo, che è una scuola che è diretta a conoscere quali sono i nostri punti di forza, e quindi una teoria che io sposo in pieno, che è quella che nella vita professionale bisogna puntare sui talenti e quindi è su quello con cui competi al massimo, e non certo su quello che è, a cui ti adatti. Certo. E quindi ecco, c'è una posizione diversa dalla scuola, dove noi quando siamo a scuola bene o male dobbiamo prendere 6 su tutto, almeno in Italia, no, per essere promossi. Quando sei al lavoro i 6 non servono, bisogna puntare sulla parte in cui sei bravo, bisogna saper fare. Ma questo è un problema comune delle donne che sento dire nelle mie interviste, quando io chiedo sempre, perché non sono a favore delle donne in maniera così acritica. Cioè, quando faccio le interviste chiedo alle persone sempre: secondo voi cosa dovrebbero migliorare le donne, o quali sono i punti di forza delle donne? Perché sono due informazioni importanti di come ci vedono, perché sono vari ambienti, e mi dicono spesso che le donne sono talmente abituate ad adattarsi per bilanciare la famiglia, per questioni culturali, perché magari così riescono a combinare capre e cavoli, che non scelgono il lavoro che veramente è il lavoro che desiderano. Non lo sanno neanche, talmente ci si abitua, talmente si cerca di combinare il tutto, che quello che veramente si desidera lo si mette da parte, e a forza di metterlo da parte non ci si ricorda più, non si capisce più veramente quello per cui siamo nate. E quindi, come professionalmente dico, e quindi questa è veramente la cosa: le donne dovrebbero sapere cosa vogliono, perché è quello che dà loro la possibilità di mettere in luce i loro talenti. Mm. E questa è la mia raccomandazione più grande a tutte le donne, di fare quello veramente che desiderano. Allora, per i nostri amici all'ascolto, per i nostri amici e le nostre amiche, qual è il sito internet al quale possono accedere, okay, per avere più informazioni, e un indirizzo email al quale scrivervi? Beh, l'indirizzo email, se vogliono scrivermi, è secretary-general@pwi.be, quindi punto be. E invece il sito è www.pwi.be, quindi è facile da trovare, e nel sito trovano il magazine che possono scaricare gratuitamente, e si possono anche abbonare alla ricezione del magazine, e poi al ricevere una mail con tutti gli eventi che facciamo, li mandiamo un mese prima, quindi le persone, certo, hanno il tempo, hanno il calendario, sul sito c'è anche quello. Per aderire, c'è la possibilità di aderire, funziona, sì, la membership? Ci sono due forme di membership, la individual membership e la corporate membership. L'individual membership sono solo donne per il momento, sono donne, e mentre invece la corporate sono delle aziende o degli enti che scelgono un pacchetto, che può essere gold, premium, insomma può essere platinum, ecco, così via. Per quanto riguarda invece la partecipazione agli eventi, la maggior parte degli eventi, diciamo il 99%, sono aperti al pubblico. Previa iscrizione, però ci si deve registrare, certo, chiaro, perché noi offriamo il catering, quindi dobbiamo sapere quante, certo, persone parteciperanno, e anche perché prendiamo la sala, quindi dobbiamo essere sicuri che abbiamo le informazioni corrette. E per quanto riguarda i membri, ovviamente le fee di partecipazione sono bassissime, sono praticamente irrisorie, e sono molto basse anche per le persone che non sono membri, quindi anche gli uomini, ma che desiderano partecipare. Uno può registrarsi all'evento che vuole. L'unica cosa da controllare è quegli eventi che sono solo per le donne. Gli altri molte volte lo scriviamo perché un uomo non crede che sia possibile partecipare, invece, certo, basta controllare questo, e è possibile iscriversi e partecipare. Alessandra, noi ti ringraziamo, ahimè il tempo in radio è tiranno e corre via velocemente, speriamo di avere vostre notizie nei mesi prossimi. Sicuramente. Bruxellando va in vacanza, ma solo per poche settimane, riprenderemo quindi poi ad ottobre, e saremo ben felici di diffondere i vostri eventi. E ai nostri amici e alle nostre amiche all'ascolto, mi raccomando, PWI, andate in Google e troverete tutte le informazioni. Grazie a tutti. Ed eccoci qui, cari amiche e cari amici, Mari D ai microfoni, Radio Alma Bruxellando. Ringraziamo Alessandra Zocca, che è stata nostra ospite nella prima parte di Bruxellando, e passiamo invece il microfono a Roma, dove troveremo Adriana Assini, autrice delle Rose di Cordova. Adriana è scrittrice, acquarellista, ha pubblicato diversi romanzi a sfondo storico, ottenendo numerosi riconoscimenti. Tra le sue opere, La signora dei veleni, edito da La Luna, Palermo, Gilles, che amava Jeanne, nella foresta di Soigne, Il bacio del diavolo, storia della contessa sanguinaria, Le evangeliste di Bruges. Questa sera tuttavia ci presenta Le rose di Cordova, in cui Adriana ha rivisitato le vicende abbastanza tristi della cosiddetta Giovanna la pazza, della sovrana di Castiglia, Giovanna I di Castiglia, che era anche figlia di Isabella e Ferdinando di Aragona, i cosiddetti re cattolici. Quindi Adriana ha ripercorso un po' quelle che sono state le tappe più importanti della vita di questa sovrana abbastanza sfortunata. Adriana, benvenuta a Radio Alma, Bruxellando. Grazie, ben trovati. Allora, ha già introdotto brevemente il romanzo di cui parleremo questa sera, che è Le rose di Cordova, edito da Scrittura e Scritture. Quindi come mai questo libro dedicato a Giovanna la pazza? Iniziamo così, poi piano piano miglioreremo un po' anche una serie di terminologie. Certo. Giovanna prima di Castiglia, mi piace chiamarla così per un rispetto postumo. L'ho incontrata in biblioteca per caso mentre facevo altre ricerche. C'era un enorme volume in francese antico lasciato sul tavolo, erano le cronache dello storico Pietro Martire d'Anghiera, era il gentiluomo di camera della regina Isabella di Castiglia, madre di Giovanna. L'ho aperto e da quel reso conto sui comportamenti di Giovanna, che tendevano a qualificarla come una giovane con problemi di stabilità mentale, io ho intravisto un'altra verità, cioè che Giovanna era una ribelle. La storia, quindi, dal mio punto di vista, meritava di essere approfondita. L'ho fatto e ho scritto un romanzo su di lei. Scrivere un romanzo, ma quanto lavoro di ricerca c'è prima di giungere alla stesura di un romanzo? Abbastanza? Abbastanza, perché sì, perché si devono consultare molti testi, e non solo sulla storia di Giovanna e della sua famiglia, ma anche su usi e costumi dell'epoca in cui visse, considerando oltretutto che Giovanna ha vissuto una parte della sua vita in Spagna e un'altra parte a seguito del matrimonio con Filippo d'Asburgo nelle Fiandre. Certo. Quindi insomma. Eh sì, è comunque un lavoro credo veramente certosino, perché poi reperire anche le fonti non è un lavoro semplice, non lo è mai stato, nemmeno oggi in tempi insomma tecnologicamente avanzati. Il primo elemento che su cui vorremmo insomma riflettere qui questa sera è la dimensione che lei descrive di Giovanna, perché ne descrive prima di tutto la dimensione di donna, quindi di una donna che ama e che vuole essere amata, poi di moglie e poi solo più tardi di sovrana, tant'è che la maternità, per esempio, lei ebbe, se non sbaglio, 6 figli, vissuta dalla regina piuttosto come un ripiego. Quindi come mai descrivere soprattutto questa dimensione, che è particolare, anomala rispetto a quello che, a cui la storia ci ha abituati? Ma in effetti è quello che emerge dalle cronache. È proprio il quadro di una donna che non ama il potere, al contrario di sua madre Isabella. Non ama il potere e rifugge le responsabilità di governo. Se si rifiutò di cedere la corona a suo marito, fu solo per un fortissimo senso della patria. Lei amava profondamente la Spagna e voleva difenderla a tutti i costi dalle grinfie di Filippo, che era uno straniero e per giunta anche malintenzionato. Quindi è successiva questa sua presa di posizione, e è una prova fra l'altro che non era poi così accecata dall'amore per Filippo, visto che al momento opportuno si è rivelata lei un osso duro nello sbarrargli la strada verso il trono di Castiglia. Invece Giovanna come madre, diciamo che sì, è vero, ha avuto 6 figli, ma se ne è occupata sempre poco. Anche se nelle cronache non viene detto espressamente, quello che affiora è il ritratto di una donna che accetta di essere madre più per compiacere suo marito, certo, che non per un suo proprio desiderio. E questo è un aspetto della sua personalità che naturalmente strideva con la mentalità dell'epoca. La maternità era intesa come un dovere sacro delle donne, da anteporre a tutto il resto, e invece questo per me fa di lei un personaggio moderno, più assolutamente, bisogna dei nostri, assolutamente. Una donna che non vuole essere soltanto madre. Mi chiamavano Francisca, un nome scelto a caso dal calendario cristiano, ma il mio vero nome era Nura, fiore tra i fiori. Ecco, Nura è il personaggio complementare di Giovanna, fra l'altro il mio narrante del romanzo. Chi si cela dietro Nura? Perché Nura? Perché è necessario creare questo personaggio? Mi è piaciuta l'idea, prendendo spunto dal fatto storico. Giovanna, nel suo anticonformismo, rifiutava le dame di compagnia che voleva imporle sua madre e che erano giovani nobili che vivevano alla sua corte. E a queste giovani nobili preferiva un gruppo di ancelle moresche, ragazze dalla pelle scura, con una diversa cultura, che erano quelle che i suoi genitori, i re cattolici, avevano ridotto in schiavitù dopo la guerra di riconquista contro i musulmani, dopo la caduta di Granada. E quindi è interessante questo aspetto, perché le cronache ci raccontano che Giovanna sfidò la collera dei suoi genitori e addirittura, dovendo partire per le Fiandre dove andava a sposare Filippo d'Asburgo, se le portò dietro, non sentì ragioni, e provocando poi regolarmente uno scandalo anche nella più evoluta corte fiamminga. Da tutto questo che è documentato, la mia fantasia ha partorito Nura, immaginando che appunto tra quelle ancelle Giovanna avesse finito per sceglierne una come confidente. Ed è per questo quindi che il titolo del romanzo fa riferimento alle rose di Cordova al plurale? Eh sì, in un passaggio del romanzo Nura ricorda il bel tempo che fu quando era ancora una creatura libera, quando viveva alla sua corte, e rimpiange gli affetti e le cose perdute. Tra queste cose perdute c'è anche il profumo delle rose di Cordova. C'è una domanda invece su Filippo che volevo fare, perché Filippo, nonostante tutto, resta ai margini del libro, anche se in realtà il deus ex machina della narrazione, quello che insomma tutto si svolge attorno al periodo di Filippo il Bello. Perché è piuttosto evanescente questa figura? In realtà Filippo è passato alla storia come il bello, anche se poi diciamo che dai ritratti d'epoca tanto bello non è. Non lo era affatto dai ritratti. Comunque, la bellezza alla fine era la sua unica dote. Lui era il figlio dell'imperatore del Sacro Romano Impero, Massimiliano d'Asburgo, ma aveva sempre vissuto alla corte borgognona, alla corte di sua madre, quindi lontano dal padre, e dal quale aveva ereditato soltanto le ambizioni, ma non l'arguzia, non la forza del carattere. E viene descritto sempre come un uomo amante delle feste, delle donne, era molto giovane anche lui, era attento certo ai titoli, ai privilegi della corona, ma diciamo era il classico fannullone che non si occupava delle faccende di governo, tanto che nella stessa Fiandra erano i suoi consiglieri che governavano. E per il resto si dimostrò sempre piuttosto meschino, calcolatore, incline al tradimento, e di Giovanna non gliene importava assolutamente niente, anzi fece di tutto per liberarsene, volendo anche mettere le mani sul regno che lei aveva ereditato alla morte di sua madre, la capì. Però e poi morì. Non riuscì, come avevamo detto prima. Sì? No, però poi Filippo muore giovanissimo, credo non avesse 30 anni quando... Sì, 28 anni muore. Non si pensa avvelenato da sé, ma non ci sono le prove. Non ci sono le prove. E invece abbiamo una curiosità, perché comunque Giovanna I di Castiglia passa alla storia invece con questo appellativo, diciamo, poco felice. Nel suo romanzo, tuttavia, emerge per l'appunto questa nuova dimensione della regina. Come è stato accolto il suo romanzo? Perché so che ha avuto molto successo non solo in Italia, ma anche in Spagna. Sia il pubblico che la critica non hanno avuto riserve nell'accettare questa diversa versione dei fatti. D'altronde già nella seconda metà dell'Ottocento erano stati scoperti dei documenti inediti importanti negli archivi di Simancas di Castiglia, e da quei documenti emergeva una verità scandalosa. Giovanna era stata vittima di un complotto ordito dagli uomini della sua stessa famiglia, prima il marito, poi il padre e infine il figlio Carlo, che tutti e tre avevano avuto l'unico obiettivo di renderla inoffensiva per potersi appropriare la corona di Castiglia. D'altronde, se andiamo a vedere le accuse di follia, si basavano su strumentalizzazioni facili poi tutto sommato da smontare. Un esempio per tutti: dicevano che fosse pazza perché dopo la morte del marito aveva preteso che a corte si vestisse di nero e che neri fossero anche drappi, pendacci, tappezzerie varie. Ma quella che veniva spacciata come una prova delle sue tendenze maniacali era invece una risposta sensata ai gravissimi problemi economici in cui versava la corte in quel momento. Sì. Giovanna si ritrovava con i forzieri vuoti e per poter far fronte alle spese aveva adottato una politica che oggi chiameremmo di austerity, visto che tingere di nero era molto più economico che tingere con altri colori. Assolutamente. Un insegnamento tra l'altro appreso da sua madre. Esatto. Allora il... Ma di quando... Il, no, no, il, che ahimè purtroppo in, in radio il tempo corre veramente veloce. Dopo questa parentesi dedicata a Giovanna, sta scrivendo ad altro oppure sta ancora lavorando in un certo modo al, al romanzo attraverso presentazioni, interviste? Sì, in effetti sto ancora promuovendo questo romanzo e porto la storia di Giovanna in giro per l'Italia ma anche altrove. E una tappa speciale sarà a Bruxelles prima di ottobre alla libreria La Piola. A noi. Bene. E questa mi sembra essere una tappa quasi obbligata, insomma, per il percorso di Giovanna stessa. Adriana, noi la ringraziamo per aver partecipato a Bruxellando questa sera, tra l'altro è anche puntata di chiusura della stagione radiofonica, riprenderemo proprio ad ottobre, quindi magari nella prossima occasione parleremo dell'altra sua dimensione che è quella di pittrice, acquarellista, perché credo meriti di essere ugualmente raccontata. Intanto gli auguriamo buone vacanze. E io auguro buonissime vacanze a voi e vi ringrazio infinitamente per l'ospitalità molto gradita. Siamo noi a ringraziarla per lo stupendo romanzo di cui ci ha fatto dono. Buone vacanze e a presto. Grazie a voi, grazie mille. Grazie, salve. Eccoci qua, eccoci qua. Siamo tornati dopo, insomma, abbiamo avuto già due ospiti, siamo, ci è l'ultima manca puntata, l'ultimo. Ma è proprio una puntata di corsa, non c'è neanche un momento di pausa. Mi dispiace. Sì, niente. Adesso. Ah, beh, adesso. Cioè, vabbè. Perché ho impedito il regista di mettere una musica, cioè, no, fermo un attimo, almeno commentiamo quest'ultimo autore, anzi quest'ultima autrice. Con Giovanna la pazza, beh, interessante questo. No, è molto interessante, poi è scritto molto bene, tra l'altro ci sono... veramente ripercorre storicamente in maniera credibile e verosimile tutta una serie di eventi che hanno caratterizzato la Spagna di allora e collegata alla vita poi da un lato di Giovanna e dall'altro di Filippo e quindi di Bruxelles e delle Fiandre, tant'è che si fanno vari riferimenti anche a Palazzo Gutenberg di Bruxelles, quindi la Grand Place, la nostra Grand Place di Bruxelles. Sarei stata proprio curiosa di vedere com'era la Grand Place del 1500. Tra l'altro, come diceva per l'appunto Adriana, Filippo morirà giovanissimo, a 28 anni, probabilmente avvelenato dal suocero che era Ferdinando, che era insomma abbastanza tremendo, ma non si sa, non ci sono le prove. Comunque, Giovanna porterà con sé praticamente il feretro del marito per anni, prima di seppellirlo, prima di dargli quella giusta sepoltura. Prima di passare al Librangolo, perché so che ci sono tanti suggerimenti di lettura, abbiamo ancora un ospite questa sera, perché sapete che nonostante sia estate ci sono eventi italiani dappertutto. Il primo è dedicato a Giorgio Morandi, quindi alle nature morte di Giorgio Morandi, che sono esposte al Palazzo delle Belle Arti dal 7 giugno e fino al prossimo 22 settembre. E poi c'è una mostra di Michelangelo Antonioni, vi ricorderete, abbiamo già parlato di Michelangelo Antonioni qualche mese fa, invece questa volta ad occuparsi di Antonioni è Cinematech, insomma, o Cinematech, che dir si voglia, e questa sera abbiamo il piacere di avere con noi ospite al telefono il direttore di Cinematech, che è ugualmente italiano, Nicola Mazzanti, nonché anche bolognese, quindi divide i natali con Dani M, e il dottor Mazzanti ci parlerà proprio di quelle che sono le attività legate a Michelangelo Antonioni e le attività di Cinematech nei prossimi mesi. Come saprete, come ricorderete, quando abbiamo parlato di Antonioni abbiamo ripercorso quelli che sono stati i suoi film più importanti, dalla signora Senza Camelia, Blow Up, Zabriskie Point, nonché la trilogia L'avventura, La notte e L'eclissi, tutte avvenute tra il 1960, all'inizio insomma degli anni 60, la cui attrice insomma più importante è stata sicuramente Monica Vitti. Quindi l'esposizione, la mostra, come si dice correttamente in italiano, ripercorre per l'appunto proprio gli attimi più importanti, gli estratti dei film, le foto, gli scenari originali, lettere, anche quadri che fanno riferimento a questo straordinario cineasta italiano. Vi ricordo anche che non solo la Cinematek consacra per l'appunto la mostra dal 4 luglio fino al 30 agosto, ma vi sarà anche un ciclo dedicato ad Antonioni che avrà luogo a Flagey tra il 1 luglio e il 30 agosto. Dottor Mazzanti, buonasera, benvenuto a Radio Alma, brussellando. Buonasera. Oh, siamo molto felici di averla nostro ospite qui a Radio Alma questa sera. Grazie dell'invito. Allora, noi abbiamo introdotto quello che è uno degli argomenti di cui parleremo questa sera, che è la mostra dedicata a Michelangelo Antonioni. Magari può raccontarci qualche cosa in più? Ma la mostra, devo dire, è molto bella, è una mostra che in parte, non esattamente nella stessa forma, è stata presentata a Ferrara per i 100 anni di Antonioni e l'abbiamo ripresa a Bruxelles, che facendo un po' di modifiche, soprattutto adattandola agli spazi che sono molto più belli di Beaux-Arts, ed è una mostra che mette in parallelo i documenti dell'archivio Antonioni, di tutte le sue carte, foto e materiali, con i suoi film, con degli estratti dei suoi film, e quindi è una, come dire, una specie di o di introduzione o di commento ai film che si possono vedere e a Cinematek e a Flagey. Tra l'altro, tra le prossime date, al di là della mostra stessa, che avrà luogo fino al prossimo 22 settembre, ci sarà anche un finissage il prossimo 28 agosto, con la proiezione delle Amiche in versione restaurata, sì, con l'introduzione di Dominique Painy, che è anche il commissario della mostra. Esatto, c'è una bella serata dentro Beaux-Arts, dove il film è già stato, credo, mostrato la Cinematek, lo mostreremo in versione restaurata. È un film secondo me straordinario, molto bello, un film tratto da Pavese, da un racconto di Pavese della Bella Estate, e che Antonioni espande in un film di quasi 2 ore, molto bello, su questo gruppo di donne nell'Italia degli anni, da fine degli anni 50, a Torino, molto bello. Ci sono invece altri eventi italiani che avranno luogo proprio a Cinematek nei prossimi mesi? Ma per il momento devo dire che Antonioni ci sta prendendo il grosso della programmazione, e penso che per rispetto alle altre nazionalità ci dovremo calmare, perché facciamo un'integrale di Antonioni che è molto rara, quindi con tutti i cortometraggi che saranno a Cinematek, non a Flagey, e alcuni 2 documentari su Antonioni, uno di Mingozzi e uno di Carlo Di Carlo, che sono molto belli, soprattutto per chi comprende l'italiano e può seguire le interviste di Antonioni in italiano invece che leggere i sottotitoli. Tuttavia mi fa piacere invece... Sì, prego. No, dica pure. No, mi faceva invece piacere ricordare un evento che avrà luogo il prossimo 19 settembre allo Studio 4 di Flagey, che è la proiezione di Gruppo di Famiglia in un interno di Visconti, dedicato per l'appunto a Bart Lancaster per il suo centenario, quindi insomma penso sia anche una delle attività. In diagonale ci abbiamo infilato un altro film italiano. Un altro film molto bello, restaurato recentemente, quindi una bella copia, e il film è un film straordinario ed è una seconda collaborazione di Burt Lancaster con Visconti, un po' meno noto del Gattopardo, ma che abbiamo peraltro già fatto vedere almeno in 2 occasioni, quindi benissimo, allora ho cercato un altro titolo. Qui Quindi ricordiamo ai nostri amici e ai nostri amici all'ascolto, Palais des Beaux-Arts, quindi immagino che tutti all'ascolto possano localizzare facilmente il Beaux-Arts dalle 10 alle 18 fino al prossimo 22 settembre, e per quanti non conoscessero ancora la straordinaria opera di Michelangelo Antonioni, questa mi sembra essere proprio l'occasione la più opportuna per colmare tutte le lacune. Dottor Banzardi, noi la ringraziamo per essere stato qui con noi questa sera. Grazie a voi. E speriamo di sentirci presto con la nuova stagione che si avvierà, insomma, tra qualche settimana. Esatto. Buona serata e buone vacanze. Grazie soprattutto. Grazie dell'invito e a presto. Arrivederci. Arrivederci. Salve. Ed eccoci qua. Quindi, insomma, Antonioni penso veramente vada riscoperto non solo dagli italiani ma anche da tutti coloro i quali amano sì. il buon cinema. Sì. Maestro del cinema moderno. E non solo. Siccome siamo veramente con i tempi molto stretti, ma lo so che la nostra Fiordaliso ha tanti suggerimenti di lettura, perché d'altronde si va in vacanza e tra ebook e libri cartacei, io scusami se nomino ancora i libri cartacei, penso che di suggerimenti di lettura... Ma come scusa? Non lo so, perché sai, di recente ho qualche problema a far accettare ancora il libro cartaceo, tutti hanno gli ebook. Bene. Gli ebook. Allora andiamo, 1, 2, 3. Alle brangolo. Piangiamo, vabbè, piangiamo. No, era un'invocazione. No, era chiaramente l'intonazione di Librangolo. Librangolo. È un'invocazione, era un... Con un omaggio a Camilleri. Cioè, che parlava... Sarebbe Librangolo. Beh, è un fatto un po', beh, certo Campano, non possiamo poi annullarlo del tutto, ragazzi. No, no, però, insomma, questo è... ci varrebbe. No, in chiusura abbiamo di nuovo, diciamo, un librangolo fuori del comune, perché generalmente noi presentiamo un libro ogni sera, però cioè ogni martedì sera, però stasera c'è un stasera invece vi racconterò di piuttosto di libri di cui sono incuriosita, e perché fondamentalmente, che è una, in un certo senso, la continuazione del Brusselando Gossip dell'altra volta. Diciamo. Brusselland Gossip. Esatto. Bisogna anche fare gossip, altrimenti, ragazzi. Assolutamente. Anche se non sarà tanto gossip, perché stasera vi parlerò di una donna straordinaria, cioè in qualche modo ci connettiamo anche ai temi che abbiamo trattato stasera, perché si tratta di Brené Brown, che è una psicologa che si occupa di vergogna e di vulnerabilità. Lei dice che quando generalmente si presenta come tale, allora tutti vorrebbero piuttosto nascondersi e dicono: sì signora, sì dottoressa, che parli di tutto eccetto di vergogna e di, e di vulnerabilità. Esatto. Però cioè, ultimamente ho scoperto i TED Talks, non so se voi ne siete appassionati, ma io comincio proprio a diventare una fan. Cioè, sono 18 minuti di presentazione che generalmente fanno parte di una bella conferenza ogni anno, e che presentano delle scoperte, delle esperienze particolari di scienziati e non. Ho ascoltato già dei video sull'ambiente, su psicologia, eccetera, e comunque sono molto, molto, molto interessanti generalmente. Ed è così che ho ascoltato anche la presentazione di Brené Brown sul suo lavoro. E quello che mi ha colpito particolarmente era il fatto che anche lei è una persona che vive il suo lavoro, non soltanto lo fa, ma riesce anche cioè riesce anche a mostrare, diciamo, la sua vulnerabilità di fronte ad un pubblico, riesce a parlare del suo lavoro su un tono molto personale e sincero, e che riesce a toccare il suo pubblico con il suo lavoro. E il bello, diciamo, delle sue conclusioni è che lei ha scoperto che sia dietro l'insicurezza dei problemi delle persone c'è la vulnerabilità, ma ha anche scoperto che anche dietro la creatività e diciamo, la capacità di vivere una vita completa c'è la vulnerabilità. Quindi è un cerchio un po' vizioso, e quello che divide le persone che riescono a vivere una vita completa da quelli che invece si perdono, diciamo, su questo cammino, c'è la uno, la convinzione di essere degni, di essere amati e di appartenere agli altri, quindi non avere paura di essere condannati o giudicati da altri, e l'altro è di abbracciare questa loro vulnerabilità, il che non vuol dire non avere paura, il che non vuol dire non avere dei momenti difficili, ma piuttosto vuol dire di accettarli e di riuscire a non nasconderli, cercare di appiattirli, perché insieme quando uno appiattisce i suoi sentimenti negativi, generalmente si appiattiscono anche quelli positivi. E quindi questo è fondamentalmente, diciamo, una versione molto semplificata del suo messaggio, del suo lavoro di più di 10 anni, quindi capirete che c'è molto di più rispetto a quello che vi ho detto, ma ovviamente questa sua presentazione mi ha tanto incuriosita anche dei suoi libri, perché adesso oramai vorrei tanto leggere quello che aveva scritto e di poter un po' riflettere sui suoi messaggi. E anche in italiano sono apparsi 2 dei suoi libri, uno si chiama I doni dell'imperfezione e l'altro invece si chiama Osare in grande. Osare in grande, questo mi piace. Sì, esatto. Osare in grande, e potete anche andare su YouTube e vi mettiamo anche comunque il link sul blog alla sua presentazione su TED, eventualmente comunque troverete anche altri suoi video, sono convintissima, se andate su YouTube. E vi garantisco che oltre a sapere questo mi è venuto in mente nel frattempo, che c'era uno psicologo ungherese che aveva detto che alla gente piace Brené Brown perché non realizzano che se la ascoltassero dovrebbero cambiare la loro vita. L'ho già sentito da qualche altra parte, ma adesso non vorrei essere blasfemo. Non approfondiamo. Troppe cose tutte insieme, una pillola alla volta, così si digeriscono meglio. Però quello che Brené Brown vi farà è, da un lato, di farvi capire attraverso il suo stile molto personale questo argomento, e dall'altro lato di farvi divertire. Quindi ve lo raccomando, guardatela e leggetela e prendete l'occasione dell'estate anche per diciamo, fare un po' di giardinaggio interiore. E sui doni dell'imperfezione che si può dire? Su doni dell'imperfezione, doni dell'imperfezione. Aiosa. Io conosco quella della ricostruzione in 3D del mondo e delle parole, che hanno soprattutto e molto spesso i dislessici, che quindi è un dono che si porta dietro uno svantaggio, se mi viene bilanciato. Però poi ci sono altri vantaggi pure lì, quindi insomma conosco dislessici straordinari al di là della dislessia. È un dono, perché si porta dietro la dislessia, sembra che si porti dietro degli altri doni, cioè che sia una cosa che combacia con un'altra, non è che uno è solo dislessico e è finito, uno è dislessico però altre cose eccetera. Il mitico Elio le storie tese è dislessico e balbuziente, però è un cantante. Beh, tutti i cantanti, però, cioè i balbuzienti, allora, perché spesso quando cantano lì è un problema di respiro, l'ho avuto con un amico. Se volete possiamo chiedere anche ad un esperto, possiamo proprio fare un intervento, ma di un minuto sulla dislessia, così. Bellissimo. Se volete, io cedo il posto. Completiamo Brussellando in bellezza con questa chicca. In attesa del cambio di microfono, vi ricordo che la Grand Plus sarà fiorita dal 15 al 18 agosto, quindi non mancate, perché è uno di quegli eventi che per chi si trova a Bruxelles deve assolutamente vedere. Quindi abbiamo qui con noi la sorella di Alessandra, Francesca, silente fino a qualche minuto fa. Allora, parliamo di dislessia e ci dicono che sei un'esperta di dislessia, quindi velocemente. Doni dell'imperfezione. Sì, doni. Io lavoro a Verona, alla casa di lettura per ragazzi, e seguo i ragazzi delle elementari, medie e superiori, e addirittura anche adulti. La dislessia è un dono, non è né una malattia, non si può guarire da questo, ma è un modo di pensare, di immagazzinare, di imparare in modo diverso. Quindi i dislessici dicono che abbiano anche una marcia in più. Sono molto creativi, l'unica difficoltà è la scuola. Nel senso che imparando in maniera diversa, la scuola non offre, non ha ancora i mezzi per aiutare questi ragazzi ad apprendere nel loro modo. Quindi ecco, è una questione di apprendimento, lo dicevamo forse pure in qualche puntata precedente di Bruxellando. In tempi di cambiamenti bisognerebbe veramente aprire nuove parentesi, nuovi orizzonti di cambiamento anche nel sistema scolastico italiano, soprattutto perché è sempre troppo orientato alla teoria e ben poco alla pratica. Se pensiamo che anche i più grandi personaggi, Walt Disney, Edison, sono dislessici, Leonardo da Vinci, quindi questo dice già molto. Pure tu, Giorgetto, mi guardi con occhio vispo, pensavo che volessi scrivere. Non lo dichiarerò mai. È un dono, l'abbiamo appena detto. Quello della dislessia, scritto da David. Quindi sì, è vero, la dislessia, ma non quando uno scrive traduzioni. No. Questo dipende. Giorgio fa delle belle traduzioni, però le lettere sono tutte mescolate. Si intuisce bene quello. Si intuisce bene. Dai, fai un omaggio all'Europanto. Diciamo che Giorgio è discolo. Discolo. Questo è legato alla creatività, la discoleria. È un altro elemento. La discoleria, la creatività. È un altro dono. Cari amiche, cari amici, siamo proprio al termine di Bruxellando di Radio Alma. È il 31 luglio e sono le 20:55. Quindi, ahimè, abbiamo un minuto e mezzo per salutare tutti. Per salutare Francesca e Alessandra Zotta. Buonasera. Alessandra è stata con noi in inizio di trasmissione, in apertura, e ci ha parlato della sua attività come segretario generale presso l'organizzazione Professional Women International, a cui auguriamo veramente tutto il meglio. Ringrazio il nostro Giorgetto. Eccoci, che passa la storia con Giorgetto, in tanti poi mi scrivono e mi dicono salute Giorgetto, e quindi io lo saluto pubblicamente anche questa sera. Giorgio Lorà, sai che ora sei in buona compagnia. Giorgio, c'è un nuovo Giorgio, vedi? C'è un nuovo giorno. Neonato, tra l'altro, quindi sei in buona compagnia. No, no, mi stai dicendo che si chiama Giorgio quello lì? Eh sì, oh, certo. Dio. Si chiama Giorgio anche lui. Vabbè, in onore, credo, del bisnonno pure lui. Ringrazio Daniele che non ha saltato una puntata. Buona serata a tutti. Il nostro Daniele, a cui fra poco faremo una statua per la pazienza e la devozione a Bruxellando. La nostra Fiordaliso, i cui suggerimenti di lettura sono veramente preziosi ed importanti. Basta dare uno sguardo al nostro blog, veramente chi avesse esitazioni o dubbi è di più è una, dislessica, sei di una bruxellosa. Io sono disnumerica. Conferma, disnumerica. Dai, in buona compagnia ce ne sono tanti in Italia e nel mondo che con i financial arithmetic skills non vanno tanto d'accordo. Maridì. E invece io devo salutare Mary D, non ti puoi, o vuoi salutarti da sola? No, io mi voglio salutare. Allora, finalmente, io saluto Mary D, e mentre il nostro personaggio registico dietro l'acquario fa così con le mani, non so cosa vuoi dire, forse è il momento veramente di chiudere.